Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera e bentornati a questa nuova puntata di Focus Economia in onda, come sempre, in questa versione estiva fino alle 18. 349-238-6666 per i vostri sms. Di cosa parleremo oggi? Torneremo sicuramente sulla situazione italiana. Abbiamo parlato ampiamente ieri, ma non si vede perché non tornarci, perché è il grande tema di queste ore. Dopo il dato molto deludente sul prodotto interno lordo della scorsa settimana, dopo questa sorta di allarme lanciato da Moody's sulla condizione economica dell'Italia, là ci avete segnalato giustamente ieri scrivendoci via sms: ma come, adesso date credito alle agenzie di rating dopo, insomma, che tanto se ne è parlato male, tanto hanno fallito negli anni scorsi? Lo ripetiamo, no, cioè non è Moody's che prendiamo come oro colato, ma è il mettere insieme quello che dice Moody's con quello che dice l'OCSE, con quello che dice il Fondo Monetario Internazionale e con quello che dice anche il Centro Studi di Confindustria, che segnala da tempo, insomma, la possibilità che l'Italia anche quest'anno non cresca o cresca veramente poco, e anche i dati reali, quelli che abbiamo visto, insomma, sembrano confermare tutto ciò. A questa situazione economica complessa, difficile e ancora difficile, nella quale l'uscita dalla crisi oggettivamente non si vede, o questa uscita, se si vede, con una vista molto tenue, si associano i dati sull'inflazione arrivati oggi, che sono dati in realtà che segnalano con quanta forza si stia palesando il rischio di una deflazione. Qual è il maggior rischio di questa deflazione? Che abbia un impatto in termini reali su quanto paghiamo in interessi sul debito pubblico, e quindi abbia un impatto ulteriore sui nostri conti pubblici. Che cosa ci si sta chiedendo più intensamente in queste ore? Il governo sarà costretto a fare una manovra correttiva per quanto riguarda i conti pubblici oppure no? Il ministro Padoan e il presidente del Consiglio Renzi fino adesso lo hanno escluso, e però la condizione sia economica sia dei conti pubblici è quello che è, quindi bisognerà vedere che cosa succede. Poi che questa manovra sia, insomma, restrittiva dal punto di vista fiscale o no è un altro conto. Parliamo in generale di correzione dei conti pubblici, bisogna capire se questa correzione è necessaria oppure no, e questo è un tema. Accenneremo anche alla Germania, poi ci torneremo meglio sicuramente nella giornata di domani. C'è stato un crollo per l'indice ZEV, quello che misura la fiducia delle imprese tedesche, e domani arrivano i dati sul prodotto interno lordo tedesco. Si parla di un prodotto interno lordo nel secondo trimestre fermo, ma alcuni analisti prospettano addirittura un calo. Tenete presente che Berlino rappresenta un terzo dell'economia dell'Eurozona, e quindi naturalmente un calo del PIL tedesco ha un impatto non solamente sulla Germania, ma su tutti noi, anche sul resto dell'Europa. E chissà che, insomma, un calo del prodotto interno lordo in Germania non convinca i tedeschi magari a fare qualche mossa più espansiva, insomma. Parleremo di questo, e parleremo anche di quella che è una, naturalmente una polemica estiva, se volete, anche una polemica di posizionamento politico, perché non dirlo, insomma, che è quella che si sta aprendo, la discussione che si sta aprendo intorno, ancora una volta, all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Sicuramente è un tema importante quello, ci sono molti altri elementi che riguardano il mercato del lavoro che vanno analizzati, che riguardano per esempio la difficoltà di assumere. Ospiteremo una persona che si occupa di mercato del lavoro, è un avvocato che lavora in uno studio legale che si occupa appunto di lavoro, e che ha scritto un bel libro che si intitola Divieto di assumere, molto consigliato perché ci sono parecchi elementi interessanti. Ovviamente, e come sempre, parleremo di mercati, mercati che oggi sono parzialmente negativi, meno 0,33% sul FTSE MIB, meno 0,29% sul FTSE All Share, Parigi che cede un punto percentuale, Francoforte l'1,23%. Per quanto riguarda invece l'America, il Dow Jones cede lo 0,27%, lo Standard & Poor's lo 0,33%. 1%, quindi giornata piuttosto debole, nonostante ci sia stato, per quanto riguarda l'Italia, almeno un nuovo minimo storico per il rendimento dei bot annuali allo 0,279% dallo 0,387 di luglio. Le notizie in breve di oggi. Vedo molte domande di ascoltatori, come, o meglio, quella di Matteo che ci scrive al 349-238-6666, un'affermazione, dice: la deflazione è una benedizione, tutti auspicano di spendere meno quando fanno acquisti, è un po' più complessa di così la cosa. E ci chiede invece un altro ascoltatore di spiegare bene qual è il problema. Ci arriveremo tra un attimo. Sì, e poi ci ricordate che il Presidente del Consiglio incontrerà Napolitano per parlare di strategie economiche, ma insomma questi sono dettagli di agenda, emergeranno ampi retroscena nella giornata di domani. L'oro sale dello 0,3% a $1,318 l'oncia, il petrolio giù dello 0,8 a $97,3 al barile, segno che al momento grosse tensioni dallo scenario geopolitico che si sta verificando, in particolare in Iraq, non si risentono, almeno sul prezzo del barile. C'è il crollo dell'indice ZEV, come si diceva, che è un indice molto importante, misura la fiducia delle imprese tedesche. L'indice si porta a quota 8,6 rispetto al 27,1 registrato a luglio. Da segnalare che oggi Moody's, l'agenzia di rating, parla anche della Germania, perché dice: sì, ok, abbiamo confermato la tripla A, il loro voto alla Germania, economia altamente competitiva, diversificata e avanzata. E però, il calo della forza lavoro e una popolazione sempre più in là con gli anni potrebbero avere effetti negativi sul tasso potenziale di crescita del paese e sulla sostenibilità dei sistemi di welfare. Non che ci siano problemi nell'immediato, evidentemente, dice Moody's, ma insomma, le riforme non bastano mai, direbbe qualcuno. Dei bot vi abbiamo detto, forte calo dei rendimenti, bene la domanda, si allenta la tensione anche sul mercato dei titoli decennali, lo spread, la differenza di rendimento tra i BTP decennali e i Bund torna sotto quota 170 punti. E poi ci sono questi dati sull'inflazione, che quasi deflazione. Allora, nel mese di luglio l'indice dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi diminuisce dello 0,1% rispetto al mese precedente, aumenta dello 0,1% nei confronti del luglio 2013. Rallentamento imputabile all'ampliarsi della flessione su base annua dei prezzi degli energetici regolamentati, quindi dell'energia regolamentata. Altri contributi, dice l'Istat, sono marginali, ma ci sono 10 grandi città che entrano in deflazione ed è questo il punto: Torino meno 0,4%, Firenze meno 0,3%, Bari meno 0,3%, Roma meno 0,2%, addirittura Livorno meno 0,7%, Verona meno 0,5%, Ravenna meno 0,1%. Tasso di inflazione più elevato, Messina più 1,1%. Si parlava di governo e ci arriveremo tra un attimo. Intanto ci sono questi dati raccolti da Confartigianato Treviso, che ha svolto un sondaggio tra 200 imprese, e cala nettamente la fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio e del governo Renzi. 6 artigiani su 10, pollice verso. Qual è il problema? Carico fiscale dei dipendenti. difficoltà del credito e poi il problema della riforma del mercato del lavoro, tema al quale arriveremo tra poco più avanti. Iniziamo dal primo di questi temi, però, la situazione economica del nostro paese. Ed eccoci dunque, abbiamo quello che ha detto Moody's ieri, i dati reali, i segnali che arrivano dall'inflazione e anche se l'OCSE dice, ha detto ieri, una fase positiva per l'Italia. Dino Pesole del Sole 24 Ore, ciao, buonasera, strappato alle vacanze momentaneamente, Dino, ciao. Buonasera Simone, grazie. Eccoci qua. Eccomi. È un'altra persona strappata alle vacanze e incredibilmente, prima ancora che lo annunciassimo, c'è qualcuno che ha mandato un SMS dicendo dateci Seminerio. Mario Seminerio, economista, autore del blog fastidio.net, ha pubblicato il libro La cura letale, edito da Rizzoli. Seminerio, buonasera. Buonasera, dateci Seminerio vivo, spero. Sì, spero. Okay. Spero di sì. Allora, inizierei da Dino Pesole. Dino, abbiamo visto i dati sul prodotto interno lordo. Quello che ci dice Moody's per quanto riguarda l'andamento del nostro deficit prevede per il momento Moody's un 2,7% in rapporto al PIL sia quest'anno sia l'anno prossimo, ma con possibilità di revisione al rialzo. Abbiamo i dati sull'inflazione di oggi che segnalano una qualche possibilità di deflazione che ha un impatto sul pagamento degli interessi sul nostro debito pubblico. Quello che vorrei capire da te è se è nell'aria, una domanda che ti facciamo quasi costantemente, questa però mi sembra inevitabile, se è nell'aria una manovra correttiva, che non è detto che sia no, di stretta fiscale, e però insomma qualcosa forse bisognerà fare. Ma guarda, gli indicatori di finanza pubblica ormai mi sembra che quasi tutti convergano su queste stime, dal Fondo Monetario alla Banca d'Italia, alla Confindustria, appunto l'Istat relativamente al secondo semestre, al secondo trimestre di quest'anno, convergono tutti su una previsione per quanto riguarda il PIL di quest'anno nei dintorni dello zero, se non sotto zero, probabilmente saremo leggermente sotto zero. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che se il PIL cresce di meno, e poiché come è noto i valori sono espressi in termini di frazioni, dunque tra un numeratore che è il deficit e il denominatore che è il PIL, ed è tutto evidente che se il denominatore cresce di meno rispetto a quanto previsto in aprile, vale a dire 0,8, e arriva a 0, se non addirittura meno qualche cosa, il deficit cresce. Allora, il governo, lo ricordo, in aprile aveva previsto un meno 2,6%. Adesso Renzi, e secondo me correttamente, ha già alzato l'asticella al 2,9%. Dai calcoli che convergono anche a livello governativo, siamo appunto attorno a questa entità, tra il 2,9% e il 3%. E allora, se ci fermiamo a questo livello, non ci sarà bisogno di manovra correttiva. Se invece il ciclo negativo dovesse perdurare anche nel terzo e quarto trimestre, evidentemente andremo fuori il target europeo, così come avvenne l'anno scorso, lo ricordo, perché il governo Letta Saccomanni a ottobre varò una mini correzione dei conti, ancorché limitata in 1,6 miliardi, stiamo parlando dello 0,1 del PIL, per riportare il deficit sotto il 3%. Però su questo punto dovremo un attimo fermarci a riflettere, perché in realtà le osservazioni che stanno facendo in questi giorni, secondo me non del tutto correttamente si riferiscono a questo valore, perché l'Europa da tempo ormai non guarda più tanto al deficit cosiddetto nominale, ma guarda al deficit strutturale, che è un altro e più complesso valore che, per spiegarlo in poche parole ai nostri ascoltatori, è semplicemente il deficit depurato dagli effetti del ciclo economico. Cioè l'Europa che ci dice? Cara Italia, noi sappiamo che la situazione della crescita è quella che è, però tu comunque devi garantire che quel deficit, tolta la crescita negativa, si riduca almeno dello 0,5%. Sì. È su questo il punto, perché noi non siamo in grado, con una recessione in atto, è di ridurre il deficit strutturale dello 0,5 di mezzo punto. Sì. Allora il punto è chiarissimo, Dino, poi voglio ritornare da te per parlare di quello che ci aspetta per settembre, perché anche nei giorni ieri abbiamo parlato molto di evasione fiscale, gli ascoltatori ci hanno sollecitato, ci hanno detto sì, ok, parlate di evasione, ma parlate di tagli alla spesa dello Stato, di quanto si riduce il perimetro dello Stato, perché poi no, è anche là che si ricavano risorse. E qua la mia impressione è che ci sia una sorta di stop ancora al momento rispetto alle almeno alle aspettative, a tutti i rapporti sulle spending review che abbiamo sul tavolo in questo paese. Vorrei andare invece da Seminerio intanto, chiedendogli di esplicitare anche per i nostri ascoltatori se siamo a ridosso, secondo lui, di una fase di deflazione, soprattutto che rischi comporta, perché qua naturalmente senza aver giustamente, senza aver chiaro il complesso e il quadro macroeconomico, ci sono alcuni ascoltatori che ci dicono beh, ma insomma che mi interessa, io vado al supermercato, spendo di meno, sono più contento. Non è esattamente così. Sì, diciamo, ci sono due forme di deflazione, una buona e una cattiva. Quella buona è quella che deriva dall'innovazione tecnologica in un contesto economico normale, che quindi cresce in condizioni normali. Questa riguarda soprattutto i beni a maggiore valore aggiunto, diciamo, certo non la spesa ad alta frequenza come ad esempio il carrello alimentare. E poi c'è una deflazione cattiva, che è quella indotta da condizioni economiche depresse e depressive. E questa è più la situazione in cui è più vicino il nostro paese e anche gli altri paesi europei, come ad esempio il Portogallo, la stessa Spagna, malgrado quello che si dice in Italia, e altri paesi. Quindi in questo momento questi dati negativi dell'indice dei prezzi al consumo sono frutto soprattutto delle componenti alimentari ed energia. E questa è una tendenza globale alla riduzione dei prezzi. Non è un caso che l'indice Eurostat dei prezzi al consumo mostra a livello headline, quindi nel paniere completo, inclusi alimentari ed energia, un tendenziale di più 0,4, ma nell'indice core, che quindi toglie le componenti volatili di alimentari ed energia, ancora un più 0,8, che deflazione non è. Io con questo non voglio chiaramente minimizzare il pericolo che un paese come il nostro cada in deflazione, perché questo pericolo è assolutamente reale. Quali sono le conseguenze di una situazione deflazionistica conclamata? Sono essenzialmente che le aziende fatturano meno, fanno sempre più fatica quindi a creare un matching rispetto a quelli che sono i loro costi fissi che esistono, e a quel punto, visto che il fattore lavoro è rigido, nel senso la remunerazione, che cosa succede? Che le aziende riducono ulteriormente la forza lavoro e si entra in una spirale che è assolutamente distruttiva. Questo è un dato oggettivo ed è anche abbastanza intuitivo, per cui esiste sicuramente un rischio di deflazione per questo paese. I dati odierni sono comunque prevalentemente frutto di una pressione ribassista su alimentari ed energia. Il che per certi aspetti è confortante, e la semplifico ulteriormente per gli ascoltatori che ce lo chiedono. In sostanza, che cosa vuol dire? Io pago meno un prodotto, l'azienda guadagna di meno e guadagnando di meno taglia posti di lavoro, perché sostanzialmente è quello che può ridurre, che riesce a ridurre. Il tutto potrebbe avere un impatto di no peso anche sul nostro debito pubblico. Sì, certo, il debito pubblico paradossalmente è una variabile che è molto condizionata anche dai livelli dell'inflazione, fermo restando che per noi l'urgenza assoluta è quella di ridurre il debito pubblico per via, come dire, di crescita, cioè lavorare appunto, come dicevamo prima, sul denominatore e questo ci consentirebbe di evitare il ricorso a manovre restrittive, perché anche il dibattito che si è sviluppato in questo mese di luglio, anche in agosto, manovra sì, manovra no, ma spesso si tende a sottovalutare che noi stiamo ancora pagando le conseguenze delle manovre fatte 2 anni fa. Sono manovre pesantissime. Dunque, prima di mettere mano ancora una volta alla leva fiscale, perché poi questo sono le manovre, bisogna stare molto accorti. Tu prima facevi riferimento alla spending review, tema che è fondamentale e che ha molto a che fare con la riduzione del deficit, se vogliamo anche del debito. La spending review è la scommessa di questo governo, così come di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni, finora devo dire con risultati piuttosto deludenti. Scommesse perse fino adesso, mi sembra. Perse, ma per un motivo molto semplice, perché tagliare la spesa pubblica è un'operazione politica a tutto tondo, cioè ci vuole una classe politica che si assuma l'onere di decidere dove e come tagliare, ed è esercizio complicatissimo, è difficile, perché comunque non è mai indolore tagliare la spesa. È anche recessivo, se vogliamo, perché non è solo l'aumento delle imposte che produce recessione. Detto questo, però, il governo Renzi ora è obbligato a tagliare la spesa, perché il documento di economia e finanza di aprile, che ora verrà tra breve aggiornato, prevedeva per il 2015 ben 17 miliardi di tagli. A oggi siamo ad agosto, non è ancora chiaro se e come questa operazione così ambiziosa possa essere realizzata. E dunque questa secondo me è la vera partita, oltre a quella europea. Però insomma, se Renzi va in Europa con una spending review più o meno avviata, qualche riforma fatta, forse potrà cominciare a dire cari signori, teniamo un po' conto del fatto che se un paese è in recessione non lo si può, come dire, obbligare a manovre restrittive, perché sennò entra in una spirale che poi finisce per coinvolgere l'intera eurozona, essendo l'Italia la terza economia europea. È un po' questo il punto, quindi insomma bisogna andarci un po', come dire, un po' cauti su questi temi, un po' cauti, un po' con i piedi di piombo. Allora, io intanto ti ringrazio, Dino Pesole, ti auguro naturalmente buone vacanze, con Mario Seminerio. Dino Pesole citava il tema dell'Europa. Ecco, qua noi continuiamo ad avere dei segnali, soprattutto in queste settimane, sulla Germania, che sono piuttosto duri, per così dire, quantomeno per l'economia tedesca. Oggi abbiamo l'indice ZEV, che ad agosto è arrivato a quota 8,6 rispetto al 27,1 registrato a luglio, è quello che misura la fiducia delle imprese tedesche. Domani arriva il dato sul PIL, alcuni analisti addirittura si attendono un calo. A suo personalissimo giudizio, c'è qualcosa in tutto questo che possa spingere i tedeschi, come dire, ad ammorbidire le loro posizioni dal lato della volontà di far crescere l'Europa? Vorrei dire di sì, ma temo di no. Comunque l'indice ZEV misura il sentiment degli investitori istituzionali e devo dire che è un indice che ha una correlazione altissima con quello della borsa, quasi coincidente con l'indice di borsa. Ora, considerando che nell'ultimo mese l'indice DAX ha perso il 10% per i noti motivi, no? L'acuirsi delle tensioni con la Russia, le revisioni al ribasso della crescita, una certa stanchezza nella tendenza di crescita, eccetera, non stupisce che l'indice ZEV esca negativo. Per quanto riguarda altri dati, dobbiamo attendere, è probabile che il PIL tedesco del secondo trimestre esca effettivamente molto deludente e forse anche negativo come prevede qualcuno, proprio perché dovrebbe esserci un minore contributo sicuramente del settore delle costruzioni, che aveva vissuto un primo trimestre estremamente favorevole, e questo davvero per motivi climatici. So che molti sorridono di fronte a questa variabile, ma è una variabile reale ed effettiva, quindi questo verrà completamente restituito. Poi molto dipenderà chiaramente dalla domanda interna. Le condizioni dell'economia tedesca non sono così depresse, non sono così indebolite. In questo momento però c'è un sentiment che effettivamente si è deteriorato. Non aiuta la situazione del conflitto russo-ucraino certamente, non aiutano alcune situazioni di incertezza in Asia, soprattutto la Cina, che è sempre sul ciglio di qualche grosso problema, anche se fino ad ora è sempre andata bene. Io dico questo: noi siamo veramente in terra incognita, nel senso che il terzo trimestre dirà se l'Europa rischia effettivamente una ricaduta recessiva oppure se il secondo trimestre è stato solamente un movimento una tantum. Questo è un punto interessante e l'ultima domanda che voglio fare riguarda i mercati. Abbiamo visto in quest'ultimo mese quella che qualcuno ha definito una correzione. Io però mi vorrei concentrare sull'Italia, perché in realtà i segnali che abbiamo avuto oggi dall'asta dei bot, per quel che valgono naturalmente, sono piuttosto positivi. Una domanda che abbiamo rivolto ad un altro operatore di mercato ieri è se il rischio è che, visti i nostri dati, i mercati ci puniscano, tornino a punirci in qualche modo a settembre, soprattutto, penso. I bot sono incettati soprattutto dalle banche per esigenze di tesoreria, quindi non fa estremamente testo. Lo spread del BTP contro Bund è ancora confortante, anche se abbiamo perso terreno nei confronti della Spagna. Sono d'accordo che i mercati potrebbero effettivamente cambiare umore rispetto al paese e probabilmente andare incontro ad una fase di alleggerimento e di disinvestimento che rischierebbe effettivamente di mettere pressione su tutta la costruzione, perché io credo che Renzi e Padoan abbiano comunque una mezza idea su fine anno di andare a conteggiare il risparmio della spesa per interessi e proprio per ridurre i danni del rallentamento che sarà inevitabile. Credo che veramente il terzo trimestre sarà dirimente in questo senso, non solo per noi che comunque siamo l'anello debole della catena europea, ma proprio per tutta l'eurozona, per il rischio di un forte rallentamento o eventualmente di una ricaduta in recessione. Grazie, grazie a Mario Seminerio, economista, autore sul blog fastidio.net, autore anche del libro La cura letale, edito da Rizzoli. Buonasera. Buonasera. Ci fermiamo, una pausa e poi parliamo di mercato del lavoro. Focus Economia. Qualche sms al 349-238-6666. Alberto, che ci dice ancora a proposito della deflazione, dice: se le merci costano meno, se ne vendono di più. Non sono un economista, è buon senso. Non è esattamente così, Alberto. Le dico, pensi solamente ad un oggetto elettronico, cioè lo smartphone che lei ha in tasca. Non è che ne compra due se costa di meno, se ne compra sempre uno. Se ha una famiglia che consuma quello in alimentari e quelli compra, non è che ne compra di più e poi li fa marcire. Un po' più complessa di così, naturalmente. E ancora, a proposito della riduzione dei margini per le aziende che può portare la deflazione e quindi quindi la riduzione del personale, inevitabilmente, ci scrive un ascoltatore: l'impresa può ridurre i lavoratori in uno scenario di mercato del lavoro flessibile. In Italia l'unica soluzione è il fallimento. È proprio questo, di questo che andiamo a parlare, di mercato del lavoro. Davide Colombo del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera a voi. L'avvocato Giampiero Falasca dello studio DLA Piper, giuslavorista, autore del libro Divieto di assumere. Buonasera, avvocato. Buonasera a voi, buonasera. Allora, inizierei da Davide Colombo, perché la discussione in questo momento che si è aperta, chissà quanto estiva, chissà quanto durerà, chissà quanto arriverà nei temi della delega sul lavoro che sarà l'esame del Parlamento, è il famoso articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Se ne torna a discutere. Tu oggi intervisti Maurizio Sacconi del Nuovo Centrodestra, presidente della Commissione Lavoro. Davide, che impressione ti sei fatto? Cioè, che possibilità ci sono che il Partito Democratico vada a convergere con l'altro pezzo della maggioranza su questo tema? Ma no, l'impressione è che convergeranno sicuramente. Come dire, ogni volta che si parla di riforma del mercato del lavoro, noi abbiamo questa maledizione dell'articolo 18 che monopolizza l'attenzione a un certo punto del percorso. No, questo è avvenuto con la riforma Biagi, è avvenuto con la riforma Fornero, sta avvenendo di nuovo adesso. Il PD converge perché ha una posizione già cristallizzata nel corso del dibattito parlamentare con la conversione del decreto Poletti e con il primo pezzo di iter del disegno di legge delega, cioè la posizione forte del Presidente del Consiglio è portare a casa una riforma, di una forte semplificazione dell'attuale insieme di regole del mercato del lavoro, una nuova codificazione che comprenderà certamente anche il nuovo articolo 18 su cui al Ministero del Lavoro è in corso un monitoraggio per vedere come ha funzionato nei primi due anni di applicazione. Non ci saranno tantissimi dati perché da quello che risulta non ufficialmente la casistica non è ancora così forte da essere dimostrativa, ma insomma loro ripartiranno portando dei dati di monitoraggio. Dopodiché il criterio qui è la scelta è capire che tipo di delega verrà data. Se viene data una delega come era stata fissata nell'emendamento di metà luglio, e cioè a dire facciamo una semplificazione con il contratto a tutele crescenti di inserimento, a quel punto si apre la strada tra appunto l'ipotesi NCD, facciamo che per tutti i nuovi tutte le nuove assunzioni la reintegra non vale più e c'è solo un risarcimento in caso di licenziamento anche disciplinare, che l'ultima fattispecie è rimasta dopo la riforma Fornero, oppure l'ipotesi PD, facciamo un periodo di, scegliamo di quanto lungo, sì, un anno, due anni, tre anni, nel quale è sospesa il diritto di reintegra in caso di illegittimità di licenziamento, dopodiché entra in vigore il nuovo articolo 18 così come è stato modificato dalla riforma Fornero e come è stato alla luce anche del monitoraggio che è stato fatto. Questo è il generale, quindi è un nodo che si sposta al decreto delegato che il governo farà una volta approvata la delega, sì, e che avrà anche questo contenuto dell'articolo 18, ma insieme a contenuti molto più vasti, articolati, è molto più complessi. Sembra quasi che il Nuovo Centrodestra abbia voluto centrare l'attenzione su questo per intestarsi una battaglia politica, perché poi comunque si andrà a finire sulla delega, inevitabilmente, anche perché tratta tutto il tema del mercato del lavoro. Allora, con Giampiero Falasca, si diceva avvocato dello studio di L.A. Piper, giuslavorista, autore del libro Divieto di assumere, che è un libro che tra l'altro vi consiglio perché vi dà esattamente l'idea di quanto sia difficile assumere in questo paese, perché finora abbiamo parlato di articolo 18 e quindi del tema del licenziamento, in realtà è complicatissimo prendere un dipendente, Falasca, come mai? Esatto, infatti la tesi che io espongo nel libro e che cerco di portare avanti da anni è che il problema non è tanto o solo l'articolo 18, che ha comunque dei problemi di cui non si parla, di cui non parla Alfano, di cui non parla nessuno, e poi se volete vi dico quali sono secondo me, ma è che abbiamo un sistema del tutto irrazionale, con 15.000 precetti applicabili al rapporto di lavoro. Io nel nostro studio assistiamo moltissime aziende straniere che in questo momento stanno scappando dal sistema paese, ne assistiamo anche alcune che hanno fatto importanti investimenti in questo periodo, ma tutti quelli che scappano e quelli che investono ci fanno una domanda: perché avete un sistema del lavoro così cervellotico e così irrazionale? Io racconto sempre un episodio divertente: nessuno sa cos'è la Cocco Pro. Cioè, gli stranieri ci chiedono ma che cosa è la Cocco Pro, cioè, ed è intraducibile naturalmente. Non c'è una parola, non c'è una definizione inglese precisa per la Cocco Pro, neanche il TAP, mi raccontavano alcuni, il sistema di gestione aziendale lo riconosce. Allora ci dicono ma perché avete questo strano mostro? Allora, seconda domanda sull'articolo 18, per gli stranieri non è scandaloso che si venga reintegrati sul posto di lavoro, quello che è veramente scandaloso è che non si sappia mai prima come andrà a finire. E allora il nuovo articolo 18, quello introdotto dalla Fornero, sicuramente ha ridotto moltissimo i casi di reintegra, ma c'è una norma che io cito sempre, anche nel libro la cito, di assoluta follia, in cui si dice che se il licenziamento economico è insussistente si ha l'indennità, se è manifestamente insussistente si ha la reintegra. Allora io mi chiedo sempre, ma qual è la differenza tra una cosa che non esiste e una che proprio non esiste? Allora, queste sono le cose che non vengono comprese. È, allora, è come il severamente vietato, cioè dov'è la differenza tra vietato e severamente vietato? No, capisco. Allora io dico, se noi... In questo io non condivido il progetto di Kino, ad esempio, che è poi quello di cui ci raccontava prima Davide Colombo. Se noi aggiungiamo la 45esima tipologia contrattuale, il contratto a tutele crescente, l'entropia di norme sul lavoro aumenta e gli stranieri continuano a non capirci nulla. Sono 15, le tipologie contrattuali sono 15, quindi? Ma allora dipende come si conta. Io nel mio libro faccio un altro esempio. Se voglio avere un'ora, ma come sono leggi? Come sono leggi, avvocato? Cosa vuol dire dipende come si conta? Da come li combinano, no? Se combino il part time con il lavoro a termine, diciamo che sono tante. Possono avere oltre 40 combinazioni le 15 tipologie contrattuali. Io faccio un esempio. Devo avere un'ora di un giardiniere o di un insegnante privata per le ripetizioni del mio figlio. Io posso utilizzare, e lo dimostro nel libro, 9 diversi strumenti contrattuali per un'ora, il cui valore sarà 30, 40 euro, 20 euro, non lo so, dipende dalla prestazione. Questo è del tutto surreale, cioè è un sistema che ormai non si riprende più, ha perso completamente il bando della matassa e purtroppo... Diciamo, Renzi in questo aveva intravisto giusto, cioè il disegno di legge delega andava in questa direzione, parlava di semplificazione estrema, riduzione di tipologie contrattuali, dimezzamento dei precetti. Poi però si va un po' sfaldando quel progetto perché torniamo a parlare sempre dell'articolo 18. Allora io dico, articolo 18, teniamolo così, ma togliamo questa cosa assurda del manifestamente sì. Insussistente, cioè facciamo... L'avete mai letto quanto è lungo l'articolo 18? Io una volta per il sito del Sole 24 Ore proprio feci appena approvare la nuova norma dovetti scrivere le differenze, ma ci misi una giornata. È di una lunghezza, sono quasi 3.000 parole, cioè è una cosa... se vediamo il codice del lavoro inglese sono... In pochissimi articoli c'hanno tutto. Allora la fermo intanto, Falasca. Noi adesso ci prendiamo una pausa per la viabilità e poi voglio tornare da Davide Colombo per parlare di questa benedetta delega, perché insomma ci dice l'avvocato Falasca, si sta, l'impressione da quel che ci ha detto, che si sta un po' annacquando, per così dire, e insomma vorrei capire quali sono le tensioni che si agitano da questo lato e che prospettive ci sono. Tra un attimo Focus Economia. Allora, Enzo ci scrive al 349-238-6666, scrive: ma quanti contratti ci sono in Germania? Allora, Enzo, io non so quanti contratti ci siano in Germania, ma se succede, come ci diceva l'avvocato Falasca, che il lavoro che dovrebbe essere il più flessibile del mondo sia quello di un'ora di babysitter, un'ora di giardiniere o di qualsiasi altro lavoro di questo tipo, può prevedere 9 tipi di forme contrattuali diverse. Capisce che il sistema è in palla completo. È inaccettabile che per avere il giardiniere un'ora io non debba scegliere tra 9 forme contrattuali. Capisce che non è normale. È la testimonianza esatta del fallimento del sistema, al quale si tenta di porre correzione. Come Davide Colombo, si stanno annacquando le ipotesi di delega, almeno nella volontà politica, oppure no, a tua sensazione e giudizio? Ma bisogna vedere a che punto è arrivata la volontà politica. Questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Intanto il disegno di legge delega è in prima lettura al Senato, quindi per essere approvato deve essere poi esaminato anche dalla Camera, i tempi naturalmente sono stretti, doveva essere licenziato dal Senato in luglio, poi si è deciso di dare precedenza alla riforma costituzionale e quindi ora siamo a una stretta, per cui appunto NCD dice: se troviamo l'accordo sull'articolo 18, cioè se troviamo l'accordo su questo criterio di delega, che poi è uno delle, sono 5 le deleghe previste dal disegno di legge e spaziano appunto oltre alla regulation e la semplificazione dei rapporti di lavoro, riguardano anche gli ammortizzatori sociali, i servizi per l'impiego e eccetera. Se si trova un accordo su questo punto, in una settimana la commissione lavoro del Senato licenzia il testo, va in aula e poi velocemente può essere approvato. Non lo so, bisogna capire. Io sono totalmente d'accordo con quello che diceva prima l'avvocato Falasca, che saluto, e il disegno di legge delega contiene quello, il cuore forte era esattamente questo, cioè era quello della semplificazione, della forte semplificazione della scrittura di un testo unico di semplificazione dell'attuale regulation del mercato del lavoro. Se quella volontà politica rimane ed è forte, articolo 18 diventa una piccola parte di un disegno molto più ampio. Che spero venga realizzato questo disegno anche alla luce di un forte e buon monitoraggio sull'attuazione della legge 92, come è stata ampiamente modificata nell'ultimo anno e mezzo. Se la volontà politica invece si è un po' sfaldata, la risposta è non lo so, cioè non so che esito può avere questa vicenda. Allora ci scrive Maurizio, dice: smettetela di essere demagogici, ho lavorato per 25 anni in un'azienda, abbiamo ridotto personale, incorporato aziende, fatto ricorso a mobilità, cassa integrazione, licenziato. Guardi, non abbiamo detto che è tutto fermo, abbiamo detto semplicemente che è un po' più difficile tutto questo che in altri paesi. E ancora ci scrive un ascoltatore, mi sembra la notazione più netta: di fronte alle complicazioni che elencava l'avvocato Falasca, di fronte a tali complicazioni l'unico sistema è che si finisce per lavorare e far lavorare in nero, perché poi in effetti finisce che la babysitter, il giardiniere, piuttosto che l'insegnante che dà le ripetizioni, si finisce per pagarle in nero perché è troppo complicato. Non deve essere una giustificazione, perché non si fa. Detto ciò, è oggettivamente complicatissimo. Grazie a Davide Colombo del Sole 24 Ore, all'avvocato Giampiero Falasca dello studio DLA Piper, autore del libro Divieto di assumere. Buonasera, e chiudiamo questa puntata con la borsa. Sembrava che tenesse Milano nell'arco della giornata, e in un ambito di piazze finanziarie europee che sono scese: Francoforte dell'1,21%, Parigi dello 0,85%, Londra di poco, dello 0,01%, e poi non ha tenuto FTSE MIB meno 0,23%, FTSE Share meno 0,19%. Paolo Paronetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. E come mai? Beh, diciamo che il recupero di ieri è stato gelato fin dall'avvio dell'indice tedesco ZEV sulla fiducia degli investitori, che è calato a luglio decisamente e più delle attese, un dato molto brutto che, come dicevi tu, ha penalizzato ovviamente soprattutto Francoforte, ma che sul finale ha finito per trascinare al ribasso tutti i listini europei. Infatti è un altro indicatore che alimenta i timori su un possibile rallentamento della ripresa economica in tutta Europa. Gli investitori quindi sono subito ai corsi, ai ripari, vendendo ad esempio alcuni dei titoli che ieri avevano guadagnato bene terreno. Questo per quanto riguarda il quadro generale. In cima al listino oggi abbiamo Monte dei Paschi, più 4,76%, dopo la schiarita di ieri, immagino, sul presidente della fondazione, insomma, e poi anche i cari dei giorni scorsi, no? Sì, esattamente, un recupero. Ieri il titolo era stato tra i peggiori, inoltre per terreno ormai praticamente dall'inizio del mese. Ieri c'è stata l'elezione di Marcello Clarici alla presidenza della fondazione, quindi diciamo che si è chiarito, si è risolto uno dei nodi da sciogliere per lo sviluppo della banca. Nei giorni scorsi c'è stato anche l'accordo sindacale sugli esuberi, quindi la speranza del mercato è che adesso i manager possano concentrarsi proprio sul rilancio di MPS, e alcuni investitori hanno approfittato dei cali, quindi di titoli giudicati a questo punto convenienti. Questo appunto per quanto riguarda Monte dei Paschi. Ancora su G-Tech, dopo l'ok di ieri alla fusione con gli americani, più 3,04%, bene anche Ferragamo. Sì, per Ferragamo sono arrivati i giudizi degli analisti, in particolare del Credit Suisse, che rifletteva sui conti trimestrali. Gli analisti hanno promosso il titolo notando che dall'inizio dell'anno ha perso circa il 30% e che, visti appunto i conti e le prospettive, a questo punto il livello è giudicato buono per fare proprio ingresso sul titolo, e quindi molti investitori hanno seguito il consiglio della Banca Svizzera, che ha alzato giudizio outperform da neutral, quindi stima che Ferragamo farà meglio del mercato proprio comprando i titoli, che hanno chiuso in rialzo dell'1,92%. E hanno accolto un consiglio, a quanto pare, su TOTS non c'è stato un consiglio di Credit Suisse, e però in calo dello 0,43%, quindi diciamo non è una cosa che si estende a tutto il lusso questo andamento positivo di Ferragamo. Anche su TOTS è proprio lo stesso report, e bisogna dire che TOTS ha molto recuperato sul finale, fino a un'ora dalla chiusura era in calo di quasi 3 punti, alla fine ha chiuso a meno 0,43%, e su TOTS il ragionamento di Credit Suisse è praticamente per certi versi uguale a quello di Ferragamo, visto che anche TOTS ha perso oltre il 30% dall'inizio dell'anno, ma in questo caso il timore è che il titolo possa perdere ancora, soprattutto perché secondo gli analisti i target per il prossimo anno sono molto impegnativi e avanzano quindi qualche dubbio sul fatto che la società possa riuscire a centrarli. Vedo Tonica, e consentitemi di usare questo ormai desueto termine, la galassia Fiat, CNH più 1,82, Fiat più 1,65, XOR un punto e mezzo percentuale di guadagno. Ben comprati, è arrivato un comunicato di Fiat a proposito della famosa soglia dei 500 milioni ai recessi che la società è disposta a pagare, e in caso contrario fallirebbe la fusione con Chrysler, la nascita del nuovo gruppo e la quotazione a Wall Street. Fiat ha precisato che non intende alzare questa soglia né rinunciarci, quindi non ci saranno esborsi supplementari per Fiat, ma che semplicemente se si dovesse superare questa cifra, quindi se i recessi dovessero superare questa cifra, provvederà a convocare una nuova assemblea approvando un nuovo progetto di fusione con nuove condizioni, quindi con un prezzo di recesso inferiore, visto che i recenti corsi di borsa sono stati inferiori a quello fissato fino a questo momento, e quindi riducendo così semplicemente con questa soluzione tecnica l'esborso da pagare agli azionisti che dovessero esercitare il recesso. Non abbiamo parlato dei titoli in negativo, in realtà e che in una giornata che in realtà è negativa, vedo qualche bancario sparso, in particolare la Popolare di Milano che c'è del 2,4%, titolo peggiore oggi. Sì, in questo caso sono proprio realizzi, come dicevamo prima, ieri il titolo tra i migliori sulla scia della trimestrale del possibile ritorno al dividendo, oggi gli investitori hanno subito passati a guadagnare, a incassare quanto guadagnato ieri. Giù anche Prismian dell'1,5%, Intesa San Paolo dell'1,4%, Eni dell'1,25%, Snam dell'1,23%, ST Macroelectronics dell'1,10%, Buzzi Unicem dell'1,09%, Tenaris dello 0,9%, Pirelli dello 0,81%, Telecom Italia giù dello 0,7%, realizzi anche sulla Roma Calcio oggi, dopo ieri è stata una bella corsa, no? Sì, fuori da FTSE MIB i due temi principali sono la Roma, che ha perso il 9,2% dopo la corsa di ieri, e Banca Etruria, che invece ha guadagnato più dell'8%, ha annunciato un'imminente trasformazione in società per azioni, la banca adesso è una Popolare, e quindi ovviamente il mercato ha subito apprezzato la notizia comprando il titolo. In 30 secondi Telecom. Ma Telecom è sotto i riflettori ovviamente per quello che deciderà di fare in Brasile su GVT, e inoltre ha annunciato oggi il rinvio di 15 giorni della vendita dell'Argentina, quindi il nuovo termine del 1 settembre. Il titolo ha chiuso in lieve calo, meno 0,2%, ma la borsa al momento aspetta di vedere gli sviluppi. Grazie Paolo Paronetto, Radio Cuore del Sole 24 ore, buonasera. Diego al 349-238-6666 ci chiede di spiegare qual è il meccanismo della legge delega. In realtà è anche piuttosto semplice, però ha ragione, non l'abbiamo chiarito bene. È un meccanismo tramite il quale il Parlamento approva una legge, un atto che ha forza di legge e che impegna il governo a legiferare su una certa materia. Quindi la legge non va, non è come un decreto legge che va dal, che viene approvato dal governo e va al Parlamento che poi eventualmente lo modifica, ma viceversa, cioè il Parlamento dà una sorta di direttiva, una serie di direttive al governo per legiferare su una determinata materia. Ed è tutto anche per oggi, per questa puntata di Focus Economia. I ringraziamenti: Mauro Del Corno in redazione, Valeria Bernardi in regia. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto e a tutti quelli che hanno partecipato via SMS. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.